Wave. Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave Live. Buonasera a tutti, Stefano Dainese che vi parla, come sempre lunedì sera, quasi sempre perché la settimana scorsa non c'ero, anzi prima di cominciare la trasmissione faccio un piccolo, una piccola comunicazione di servizio. Io dovevo fare la mia playlist di fine anno, o meglio di inizio anno, riferita naturalmente all'anno da poco terminato. La settimana scorsa per ragioni meccaniche non sono potuto essere presente, si era rotta la serratura, siamo rimasti chiusi fuori. È una cosa fantoziana, e il fatto che fosse la prima trasmissione dell'anno, come dire, vabbè, non sono superstizioso, per cui ci ho messo una pietra sopra. E questa sera non farò la playlist perché abbiamo una cosa più importante qui, di cui parlerò fra un attimo, quindi la farò la settimana prossima, sperando che non nevichi come hanno annunciato, insomma dovrei riuscirci. Allora, cosa succede questa sera? Questa sera abbiamo un ospite gradito, si dice sempre gradito l'ospite, che viene da Milano per farci ascoltare questo suo disco molto molto interessante. Lui si chiama Paolo Saporiti, ti do il benvenuto Paolo. Grazie mille, ciao. E come sentirete subito, questo album che si intitola L'ultimo ricatto, tra l'altro il titolo in italiano e poi tutto cantato in inglese, vabbè, per fare un po' di confusione, è un disco di frontiera secondo me, perché è un disco che esige una certa come si può dire, uno certo stupore, ecco, che può nascere ad un primo ascolto, perché è lo scontro di due mondi lontani. Adesso magari lo capirete subito fin dal primo brano, ma poi qua Paolo, sì, quindi possiamo analizzare bene la cosa. Io anticipo subito che lui qua in studio ha solo una chitarra acustica, quindi lo sentiremo in veste crudo francescana, diciamo così. E nel disco invece ci sono anche altri musicisti e li sentirete. Allora, il brano che ci ascoltiamo in apertura, che è anche l'apertura del disco, si intitola Deep Down the Water. Lui è Paolo Saporiti, buon ascolto e dopo parleremo con lui. Oh, Rock Wave. Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave Live. Questa era Deep Down the Water, il brano d'apertura dell'album di Paolo Saporiti. Paolo, è una cosa un po' banale, però visto che è la prima volta che sei nostro ospite, se ci racconti un attimo di te, visto che non sei un novellino. Musicalmente. Sì, beh, musicalmente sì. Allora, musicalmente, come compositore, autore, nasco nel 2005, nel senso che il primo disco, quello che sono venuto a presentare all'epoca, The Rasta's Fall, primo lavoro chitarra e voce, era veramente la prima esperienza di registrazione e di lavoro in studio, fatto con un amico che poi ha collaborato con me per il disco successivo, che era in trio invece. Lì prendevo il nome di un gruppo, che era questo trio, ci chiamavamo Donkey Ball, disco omonimo. Poi da quello c'è stata una leggera evoluzione, perché avendo incontrato questi musicisti ho iniziato a capire che il mondo della collaborazione era qualcosa di estremamente produttivo e bello, umanamente e musicalmente. Quindi, conosciuti loro, ho iniziato a aprire le porte un attimino a quello che è l'idea di strutturare i brani, che per me sono sempre nati chitarra e voce, e quindi a tutt'oggi nascono chitarra e voce. Su questo viene sempre inserito quello che è il mondo dell'arrangiamento. Il secondo disco come solista era Just Let It Happen, che era una specie di EP nel quale collaboravano già Shabir Riondo, che compare adesso nell'ultimo ricatto, e una serie di altri musicisti, tra cui all'epoca c'era una violoncellista, Francesca Ruffilli. Quello che mi è capitato pian pianino è stato aver la fortuna di incontrare dei grandi musicisti, per quello che mi riguarda, con delle capacità di umane comunque alte, perché oggigiorno, soprattutto in Italia, credo che o sei estremamente appassionato e disponibile, disposto a spenderti senza avere dei grandi ritorni, se no non si va da nessuna parte. Quindi la grossa fortuna che ho avuto è stata avere gente che sposava la mia causa senza avere grandi ritorni, che aveva voglia di condividere un mondo, perché io non so la musica, quindi chi suona con me deve farlo in maniera abbastanza viscerale, istintiva. In quel caso, per esempio, Francesca era una musicista del conservatorio, si è messa a disposizione per la prima volta, credo, nella sua vita, a creare ex novo anziché andare a spartito. A volte per chi viene da un conservatorio sì, non è facile. Devo dire, vabbè, lì il rapporto era molto stretto, molto forte, quindi c'è stata una fortissima capacità di tradurre le cose. Lei era veramente creativa e sentiva tantissimo, quindi non ha avuto grandi problemi. Gli altri due collaboratori, Lucio Sagone e Cristiano Lati, chitarra e batteria, erano musicisti strepitosi, quindi non hanno avuto nessun problema. Adesso nell'ultimo lavoro, poi c'è stato il disco con Universal, che è intitolato Alone, che è stato arrangiato da Teo Teardo. Ah. La scoperta di Teo Teardo è una scoperta di Universal, nel senso che io sono venuti loro a bussare alla mia porta, mi hanno contattato e portato in Universal classica e jazz, quindi il settore abbastanza, che per me è stato abbastanza un qualcosa di positivo, estremamente, nel senso che è stato un bollino un po' d'occa quello che stavo facendo in quel momento. Non avevo molto materiale pronto, ho cercato di proporre una nascita vera e propria di quello che era il disco. Devo dire che ho scoperto una realtà della major che non è esattamente quella che uno si aspetta. Anche sotto questo profilo non c'è il mondo in cui tu ti presenti come artista, loro ti prendono per mano e assieme si fa qualche cosa. Purtroppo questa realtà ormai è una cosa che non esiste più, devi arrivare con un prodotto fatto e finito. Mi ricordo che facevo ascoltare i primi brani, ma proprio le bozze, perché pensavo che confrontandosi con gente di quel livello, di quella caratura, il discorso potesse partire proprio da quello, primi ipotesi di brano e lavorarle assieme. Questo non esiste, le cose devono essere pronte, il disco, infatti si arriva poi all'acquisizione di un vero e proprio master, che viene acquisito e viene promosso quello. Loro l'idea interessante che hanno avuto è stata contattare Teo, perché la loro ipotesi era: siccome io non scrivo dei ritornelli così efficaci da cantare sotto la doccia, l'ipotesi era rendere più solare, comunque più aperto, quello che stavo facendo in quel momento. Quindi Teo Teardo doveva tradurre in solarità gli aspetti che a me mancavano. Io non so se il lavoro ha funzionato in quel senso esattamente, anche perché poi non sono convinto, scrivendo in un certo modo e ascoltando un certo tipo di musica, che il senso della musica stia nel ritornello, nel senso risiede da altre parti per me. Però è stata un'esperienza enorme, perché comunque anche questa è stata una cosa che mi ha confermato nell'ipotesi di poter fare il cantautore o comunque il musicista a tempo pieno, cosa che io come passato non arrivo da una famiglia di musicisti o da gente che abbia abitato la musica, mi sono dovuto costruire un po' tutto da solo, perché nasco come figlio di psicanalisti. Ah. E quindi io ero proiettato verso quella strada in qualche modo. Poi cammin facendo, cioè, entrambi i genitori psicanalisti. Allora, il secondo marito di mia madre, io sono figlio di divorziati, il secondo marito è uno psicanalista, mia madre è una psicoterapeuta e romanziera, comunque scrive. Mio papà era un chimico. Ah, okay. Però aveva una mente di un certo tipo, quindi bazzicava il mondo della psicologia, diciamo così. Vabbè, per chi non lo sapesse, non ha legato il nome, Xavier Iriondo fa tuttora di nuovo parte degli, sì, After Hours, ha fatto parte della formazione per parecchi anni, poi c'era stato una separazione, non so se consensuale o meno, con Manuel Agnelli, e poi è tornato nell'ultimo disco, bellissimo, Padania, sì, peraltro, devo dire che, ecco, un'anticipazione della mia playlist della settimana prossima, uno dei miei dischi preferiti di quest'anno, appunto il ritorno di Sabier, è stato veramente una staffilata. Credo che abbiano vinto anche il Tenco, no? Non lo so, forse come cantautorato, sì, ecco, Maurizio Calzavara conferma, lui è molto, molto più dentro di me di queste cose. E sì, diciamo che Xavier è un personaggio veramente notevole, dopo magari ne parleremo. Intanto direi che possiamo cominciare a sentire qualcosa, se ci annunci la canzone che suonerai. Allora faccio I'll Fall Asleep. I'll Fall Asleep, okay. Lui è Paolo Saporiti, vi ricordo, questa è Rock Wave su Blu Radio Veneto e siamo dal vivo. Pouring rain, I become like water in a foreign sky. But when you fall asleep, you become my daughter. You're my morning tide. I'll fall asleep in the meadow of my dreams, and I'll fall asleep in the meadow. Recall the games that we used to play. Remember between the lines, and you just realized what I had in mind. And I'll fall asleep in the meadow. Questa era I'll Fall Asleep, Paolo Saporiti dal vivo qui sono nei nostri studi. Questo disco, allora, l'ultimo ricatto, adesso ci hai un po' riassunto, certo, il tuo passato, parliamo del presente, da quanto è uscito il disco? Allora, siamo usciti a settembre, quindi sì, una cosa è ancora, ancora fresco, ottobre, non mi ricordo più, ho perso il conto. Vabbè, insomma, poco. Sì, sì, è pochissimo. Come è nato il disco, con quali intenti, differenze rispetto alle tue cose del passato? Allora, come intenti direi che nasce esattamente come nasce tutto quello che ho fatto fino ad oggi, nel senso che quello che mi capita è voler quasi scattare una fotografia e voler archiviare quello che ho scritto nei mesi che girano intorno all'uscita del disco, nel senso che io scrivo quotidianamente, vado avanti a produrre e c'è un momento in cui quello che ho prodotto mi soddisfa abbastanza e vedo che c'è un nesso logico che può stare unire tutto quello che ho fatto in quel momento. È un qualche cosa che si esaurisce magicamente di suo, nel senso, come scrivo improvvisando e lavorando a sentire regolarmente su tutto, altrettanto tengo questa dinamica, questa modalità più o meno sulla costruzione del disco. Il titolo del disco arriva successivamente, quindi il concept alla base si realizza quando il numero dei brani arriva a essere sufficientemente grosso per sostenere l'importanza del disco. È come se si unissero sempre i puntini, come il gioco della settimana enigmistica, cioè ci sono dei puntini messi lì e magicamente si uniscono con una forma precisa. In questo caso voleva essere un punto di chiusura e di apertura su quello che è stato l'esperienza Universal e quello che sarà il futuro. La ragione per cui c'è tutti i brani in inglese, il titolo in italiano, è per una specie di fil rouge rispetto a prima, nel senso che il mio percorso nasce in inglese perché la mia espressione naturale, spontanea, è in inglese, però inizio pian pianino a sentire la necessità di arrivare all'italiano. E questa cosa qua, sempre per questo senso che do comunque alle cose, che è un costante, è vita, quindi tutto quello che si è si trasforma, cresce, e l'italiano pian pianino sta iniziando a diventare qualcosa che ho bisogno di mettere a terra. Avevo iniziato scrivendo in italiano, proprio la primissima cosa, i primi brani che avevo scritto da giovane, da piccolo. Però va bene, non è arrivato da nessuna parte. C'è un brano che tengo buono e che uscirà probabilmente se produco il disco in italiano, che credo. Il titolo in italiano è perché l'ultimo brano del disco precedente, che è tutto in inglese, era intitolato in italiano, era Gelo. Quindi mi sembrava lì di poter dare un senso quasi storico all'evoluzione delle cose. Il filo appunto. Esatto. E il punto di vista è di una situazione nella quale mi sono reso conto di essermi un pochino messo da solo uscendo da Universal, ma non solo, anche nella vita. Come essermi fatto un autoricatto rispetto alle cose, essermi messo lì e aspettare un po' che le cose cambiassero da sole. In realtà è quello l'ultimo ricatto. Sì, in realtà appunto bisogna darsi un... Hai già risposto a una domanda che volevo fare. Allora, andiamo con un altro brano dal disco, che si intitola Weird Fuel. Nel libretto ci sono anche le... stavo per dire le traduzioni, ma... Non sono proprio delle traduzioni. Infatti è molto interessante sta cosa, perché potrebbe essere l'equivalente di come sarebbe il testo se fosse stato scritto in italiano originariamente. Hai colto esattamente l'intenzione, nel senso non che è una traduzione letterale. Non è una traduzione letterale perché io avrei tradotto letteralmente. In realtà ho passato i testi a mio fratello e a mia madre e ho detto: fatene quello che ritenete giusto. Loro scrivono bene in italiano, tutte e due. Il mio pensiero è stato: siccome a me piace molto l'inglese, perché è un certo tipo di ermetismo, un certo tipo di tenere le cose un po' nascoste, un po' velate, mi piace l'idea che uno sia completamente libero di interpretare quello che una persona dice, non c'è bisogno di... cioè io trovo che spiegare e tradurre sia sbagliato. Tradurre e tradire, la famosa frase. Quindi che lo faccia qualcun altro mi sembrava la soluzione più interessante, e che allo stesso tempo un'altra persona abbia già dato una potenziale interpretazione a quello che ho scritto mi sembra altrettanto interessante, perché poi è il lavoro che chiederei a chiunque: leggere e capire quello che vuole. Sì, ovviamente, diciamo che sono molto, come dire, molto sensati anche in italiano, ecco, è sì, quello il succo del, a me del discorso. Quando ho avuto l'idea, che è già precedente a questo disco, e l'ho vista realizzata, proprio mi sono detto sì, è perfetto, nel senso che comunque si colgono degli aspetti di quello che io voglio come lavoro in generale. Poi quando sarà il disco in italiano le cose saranno quelle, quindi. Chiaro. Allora ci ascoltiamo intanto questa Weird Fuel. Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave Live. Allora, siamo qui con Paolo Saporiti, abbiamo appena ascoltato la sua Weird Fuel, in cui sentivamo l'intervento di Stefano Ferrian al sax soprano. E visto che ci sono, cito gli altri musicisti, sì. Tu suoni la chitarra acustica, il banjo, il pianoforte, oltre naturalmente a cantare. Xavier suona queste cose che sa solo lui, il Mahaimetak, che è uno strumento di Star Trek, immagino. È uno strumento che ha costruito lui. Ah, ok, quindi l'ha potuto chiamare come chitarra preparata, credo che lui la chiami. In realtà è uno strumento che lui suona in orizzontale, con tutta una serie di corde sovrapposte che utilizza percuotendo, a volte anche con delle biglie, a volte con dei pennelli. Insomma, è un virtuoso del rumore. E poi suona la chitarra, naturalmente il melobar, che è un'altra cosa famosissima. Lui è un altro strumento che qua non mi ricordo, no, qua non l'ha usato, il toishokoto, che è uno strumento cinese. Lui ha tutti questi, deve la casa piena strumentazioni. Il toishokoto era una specie di, da quello che mi aveva spiegato lui, uno strumento cinese, non so se del 300, roba così, che praticamente veniva dato in dotazione ai bambini a scuola, e ha dei meccanismi simili a quello della macchina da scrivere, cioè sono i tasti in orizzontale e poi suoni col destro, con la destra, come fosse un bordone fisso, e suoni spennellando e percuoti praticamente con dei martelletti queste corde. Poi sono le lame sonore, vabbè, tipo Black Heart Procession, esatto, per intenderci, esatto. Cioè, sì, e Field Recordings, registrazioni prese, sì, che ne avrà una collezione infinita. Poi appunto abbiamo citato Stefano Feriano che suona il sax in un paio di brani, Zeno Gabaglio al violoncello, Cristiano Calcagnile alle percussioni, che fa un lavoro veramente egregio. Io credo che lui sia veramente uno dei migliori batteristi. È interessante, io pensavo che il disco fosse prodotto da Xavier, quando ho visto che c'era, invece lui ha fatto gli arrangiamenti. Sì, la produzione è di Raffaele Abbate, sì, insieme a te. Raffaele Abbate, che è anche, non è il tecnico del suono, no? È il tecnico del suono, è praticamente la persona da cui io ho registrato tutte le mie parti, e anche Zeno ha registrato le sue parti da lui, il resto è stato fatto da Xavier in studio suo. Ah, quindi per questo ha fatto gli arrangiamenti. Ma vedo che l'etichetta è la Orange Home Records, c'è, sempre di Raffaele. Praticamente ci siamo conosciuti anni fa con i miei primi lavori con Raffaele, all'inizio quel che mi ricordo è che lui era un pochino scettico sull'utilizzo dell'inglese su alcuni aspetti, quindi non si è trovato subito un modo di creare qualche cosa assieme. Probabilmente nel tempo io sono cresciuto, è cresciuto anche lui, e quest'anno ci siamo incontrati e devo dire è nata una collaborazione che io trovo estremamente interessante e bella, con tutti gli aspetti crismi dell'amicizia, anche del rapporto profondo, e che spero vada avanti nel tempo. Adesso magari ci sono in qualcos'altro, poi ti voglio chiedere un altro paio di cose sul disco. Allora faccio questo, è un pezzo che si chiama Stolen Fire, è da un tuo vecchio disco? No, questo fa sempre parte del disco nuovo. Ah, ecco perché non lo ok, allora Stolen Fire dal vivo Paolo Saporiti, buon ascolto. Around me, a draw me laying lines that I could quote. She pulls the shades and bound me on how the handkerchief that I could stroke. And all began to sing, and bells began to ring. She throws her arms around me upon the windowsill where we could sleep. The veilers walk beside me and all the thoughts I found that we could steal. Then I became a spine, and spine became a bone, drop my mind into this. I spoke myself for Lord in time that I could not realize that I was born in time that no one knows. Drop my mind into this. I spoke myself a lot in time that I could know. Realize that I was born in time that no one knows. Fire, con questo finale abbastanza americanizzante, diciamo, sì, un po' Johnny Cash. Esatto, stavo pensando a Johnny Cash. Beh, dei tuoi riferimenti musicali magari ne parliamo dopo, volevo prima chiederti un'altra cosa. Quindi, da quel che ho capito, tu hai fatto le basi, sì, voce, chitarra, dopodiché sei fidato. Ho detto, caro Chebiero, non distruggi quello che hai davanti. No, l'idea è stata, ho cercato di comunicargli, ma il lavoro è stato durante e mentre. Praticamente gli ho chiesto se poteva tradurre il più possibile l'ipotesi di un bambino che è dentro in una stanza che gioca con i suoi giocattoli, che poi si traduce in una canzone specifica, ma che costruisce il suo mondo difendendosi da quello che c'è fuori, dove può esplodere un'apocalisse. Gli ho detto, inserisce un'apocalisse su quello che è, quello che io costruisco. Quindi destruttura, fai quello che vuoi, inizia a scomporre quello che vuoi, disfare quello che ti sembra. In realtà lui è stato molto discreto in questa cosa, nel senso che non è entrato neanche così tanto a gamba tesa come gli avevo chiesto, nel senso che in alcuni casi la mia proposta era proprio veramente di esasperare il noising e di esasperare, cioè proprio volevo che ci fosse una nube nera dalla quale fuoriuscire con la chitarrina e la voce. Sotto questo piano abbiamo lavorato poi anche per quel che riguarda l'aspetto vocale. Io avevo registrato tutto, poi anche lì lui ha cercato di mettere un po' mano anche alla sonorità della voce, nel senso che ci sono stati utilizzati abbastanza filtri. Il cantato è sempre quello, semplicemente magari è stato passato attraverso un effetto che lo rende un po' telefonico piuttosto che altro, magari un distorsore sulla voce, tutti i piccoli interventi che comunque secondo me hanno contribuito a rendere molto, Chebiero dice, fresco. Per me è molto vivo il disco, nel senso che è un disco di cantautorato tosto, nel senso che non è un ascolto proprio facilissimo, che però rimane secondo me pieno di sorprese, pieno di novità, e questa è la cosa che abbiamo cercato assieme, cioè continuare a proporre, a buttare lì cose nuove rispetto a quello che accadeva. Comunque chitarra e voce è. Sì, ovviamente è quello appunto che si percepisce all'ascolto, questo incontro-scontro, diciamo, di due mondi. Mi viene in mente una cosa che musicalmente non c'entra assolutamente nulla, ma che nasceva dallo stesso concetto, secondo me. Non so se ti ricordi gli Yazoo. Non li conosco. È un duo di musica tipo dance, diciamo, il fondatore Clark, okay. Vince Clark, mi pare, era il fondatore dei Depeche Mode, fece i primi tre dischi di Depeche Mode, se non vado errato, era la mente musicale. Poi se ne andò e cercò con un annuncio una cantante che avesse una voce soul, e beccò Alison Moyet, che aveva una voce spettacolare. E i loro dischi erano, questo secondo me molto bello, ecco qua il nastro d'Agostino subito. Questo fu uno dei loro singoli. Successo. C'era questo violentissimo contrasto fra la musica che era precisa, totalmente sintetica, non c'era nessun strumento vero, erano solo sintetizzatori, e la voce di lei che invece sembrava uscita da una chiesa del sud degli States. E fra l'altro dischi nel loro genere restano, anche perché al di là dei singoli, diciamo, dance, avevano dei pezzi... C'era roba tosta. Molto, ti consiglio di... Ce ne sono alcuni pezzi che sono dei veri capolavori. E appunto era molto bello il fatto di mettere insieme due cose che apparentemente sono agli estremi opposti, che poi quello che avete fatto voi, ecco, ad esempio questo pezzo che adesso è in sottofondo. Looking from a window above, it's like a story of love. Can you hear me? Came back only yesterday. E qui parliamo degli anni 80, insomma. Beh, direi molto attuale. Sì, beh, a parte i suoni che sono... ma il signor Clark all'epoca, cioè, non per niente ha fondato i Depeche Mode. 82, caspita. Mio fratello. Vabbè, io mi ricordo quando era appena uscito il disco. Vabbè, no, ecco, non c'entra niente, però appunto è che non sono molti musicisti che cercano di fare queste cose. Poi naturalmente con me era anche poi il rischio che correvano gli Yazoo, il confine tra il gioiello e la porcata in questi casi. Quindi insomma vi siete presi dei bei rischi. Sicuramente il fatto di avere, diciamo, come backup signori Riondo, siamo rimasti abbastanza, ne parlavo anche prima con Maurizio, abbastanza sconvolti, io soprattutto, da quanto invece sia stato accolto bene questo lavoro. Io pensavo veramente di aver fatto una cosa, questo per l'ennesima volta conferma quello che io purtroppo dico delle major, che non hanno minimamente idea di che cosa voglia dire confrontarsi con la gente, e cioè non hanno il sentire giusto. Beh, ho parlato con tanti musicisti, nel italiani, senso, stranieri, la sensazione è con sempre, tutti uguali. È sempre di più che si appoggino a quello che loro hanno scelto e stabilito, e quindi non c'è nessuna veramente capacità di sentire quello che può veramente arrivare. E questo disco qua è la dimostrazione, perché io sono andato in Universal con questo disco e mi hanno detto no, è troppo di nicchia, noi non possiamo produrlo, non possiamo farlo. E invece hai dei riscontri che sono, numericamente non lo posso dire, ma dal punto di vista della critica e dell'ascolto e di chi mi parla. Beh, numericamente anche le major ormai fanno poco niente. Insomma, numericamente ormai purtroppo il gioco è andato. Andiamo con un altro brano del disco, questo si intitola Never Look Back. Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave Live. E questa era Never Look Back. I tuoi testi sono riferiti a esperienze personali o... Sì, è tutto bene o male, tutto bagaglio di quello che sento e quello che vivo. Ci sono in questo disco ci sono un paio di situazioni in cui esco un po' dall'intimismo e vado verso il sociale, tipo We Are The Fuel, che parla un po' della sensazione di fastidio e di schifo rispetto alla società, come sta andando, alla televisione, a quello che ci viene proposto. Sweet Liberty, che è un brano che parla un attimino dell'accettazione della libertà delle persone nell'essere se stesse. Comunque tantissimo del mio lavoro va verso l'introspezione e la ricerca di sé, e quindi poi alcuni aspetti del sé che va verso il sociale, verso il mondo. Credo che pian pianino anche in questo, come l'utilizzo dell'italiano, ci sarà un allargamento verso l'esterno. Sei uno che fa progetti a lungo termine. Ma io la sensazione che ho sempre avuto fin dall'inizio è che si parla di vita, non si parla di professione, non si parla di altro, quindi ci si confronta col fatto che tutti i giorni ti alzi e tutti i giorni hai a che fare con te stesso e con quello che sei. Quindi la musica è questo e il percorso è quello, non è che cioè anche l'idea che mi è stata proposta tante volte, quella di pensare che se un gruppo non funziona in 2 anni allora bisogna buttare un eccesso o altre cose così, capisco che il mercato funzioni così, ma secondo me è di un'idiozia totale, perché vuol dire impedire a qualsiasi cosa di crescere e avere un'evoluzione. Ma, siamo a livelli proprio adesso gli ascoltatori non lo sanno, ma mentre dava il brano noi stavamo parlando delle major. Io ho una storia che secondo me è la quintessenza di come ragionano le industrie discografiche. David Gray esordì con un disco che fu esaltato da tutta la critica mondiale. John Baez lo definì, disse che era dall'epoca del suo amico Bob, che non sentiva uno che scriveva così, no? Quindi dopo il secondo album David Gray fu preso dalla Mercury, mi pare, una grossa etichetta, gli fecero fare un disco che doveva essere, e si intitolava Sell Sell Sell. Me lo ricordo bene perché penso sia, l'avevo pagato 34.000 lire, che era una cifra iperbolica, perché non era con una grossa etichetta e per noi in Italia non si trovava. Comunque al di là di quello c'era dentro un singolo che si intitolava Late Night Radio, io l'ho sentito e ho detto ok, adesso David Gray diventerà famoso in tutto il mondo perché questa è una canzone che spacca, la mettevo sempre sui radio. Non si sa bene, forse la Mercury, ne parleremo quando verrà qua, a proposito fra 2 settimane Caroline Mas, un'altra la cui carriera è stata rovinata dai signori della Mercury, per l'etichetta per cui Graham Parker scrisse Mercury Poisoning, era un'etichetta veramente di incapaci, e avevano per le mani questo brano e il disco lo vendette pochissimo, quindi David Gray fu licenziato e gli dovettero liquidare dei soldi e lui con quei soldi si ritirò in Irlanda, in casa sua, aveva un piccolo studio in casa con la batteria elettronica, fece un altro disco che è il disco quello che conteneva Babylon, che ha venduto, autoprodotto da lui, vendete mi pare 7 milioni di copie, 8 fa Maurizio, ecco, vendere 8 milioni di copie con un disco che hai prodotto da solo significa che per il resto della vita tu puoi fare quello che praticamente non hai più bisogno di niente, perché ci guadagni una quantità di denaro pazzesca. Dopodiché Late Night Radio, la canzone che la Mercury non riuscì a far sfondare, finì in classifica in America 3 volte in 3 diverse cover, una di una cantante country famosa anche, e poi è stata messa nella colonna sonora di 5-6 film. Cioè questi avevano per mani una canzone, io mi ricordo la sentì e dissi ok, questo è un pezzo fantastico, fatto da Gray, ha sempre scritto in ogni disco, c'è un singolo. Eppure questi non riuscirono a sfruttarla, quindi il problema non è che vogliono fare i soldi con la musica, il problema è che non ne sono capaci. Sì. Dopo è chiaro che si trovano un disco come il tuo e sono, secondo me, come il bambino perso nel supermercato che ha perso la mamma, non riescono neanche a capire cosa hanno davanti, insomma, cioè non riescono a gestirlo, perché adesso vanno sempre a moda, adesso da sempre vanno a mode, no? E a me la cosa che lascia un po' perplesso, ho rilasciato un'intervista ieri scritta, quello che mi ha sempre colpito nei pochi contatti che ho avuto è che la stessa persona con la quale ti confronti in un momento ti sta dicendo amo David Crosby e l'istante dopo ti sta proponendo, non faccio nomi, un rapper italiano con lo stesso entusiasmo e lo stesso... E io dico, non mi puoi dire a me che poi io sono... che vivo di assoluti e che sono un estremista, perché sei tu che non hai un minimo di coerenza, che c'è un minimo di filologico in quello, emotivo anche, perché non si può, cioè nel senso non esiste, devi dimenticarti di ogni cosa e trattare tutto quello che hai davanti alla stessa stregua. Ho capito, ma allora cioè... è come il famoso giornalista televisivo italiano che insiste solo capolavori, disco meraviglioso, fantastico, che sia appunto Tony Dallara o David Crosby per lui, no? È una cosa che lascia veramente senza parole, perché poi insomma quando uno ha in mano un monopolio, perché praticamente se non è un monopolio sempre lo è quasi, la cosa diventa sempre... Prima hai parlato di mode, domanda molto profonda, tu hai sempre avuto la barba e i capelli lunghi? Praticamente sì, cioè io... Ok, basta, mi basta sapere in questo. Realtà vado, cioè lascio crescere e poi taglio. No, è che chiunque compri le riviste musicali o segua la scena... Sì, purtroppo oggi ho visto un video alternativa americana. Stavo pensando di diventare glabro entro ci sono domani mattina. Ci sono dei gruppi che sono di una pelosità veramente fuori dal comune, ecco. Ci canti qualcos'altro? Allora, visto l'idea vostra, facciamo... Scusa, prima faccio un po' di comunicazione di servizio. Sono le 23:15, siamo a metà di questo appuntamento con Paolo Saporiti, che come sentite è qui in studio a Blu Radio Veneto con la sua musica e il suo disco intitolato L'ultimo ricatto. Faccio un pezzo del disco vecchio di Alone, intitolato Rotten Flowers, era il singolone che ha venduto milioni di copie. Rotten flowers, you turn back to snow. Feeling so cold, I'm not feeling calm, I'm broken by thoughts of losing your love. Useless words I used to laugh and groan, but when you and me in tune, I'm hoping for June. Living so tough without in my heart, I'm almost alone. Whoa, whoa, whoa, whoa. Rotten Flowers era dal disco precedente. Sì. Prima abbiamo citato, non mi ricordo se eravamo in trasmissione o no, comunque i nomi sono venuti fuori, sono Tim Hardy, sì. David Crosby, tutta gente giovane, Tim Buckley, tutta gente, sì, Tim Buckley, volevo dirlo, ecco, non l'avevamo ancora citato, ma come dire, c'è, il ragazzo c'è, è lì. Ma oltre a questi c'è anche qualcuno, diciamo, più di recente. Recente, guarda, io ho fatto tutta la prima parte della mia vita, Yorkville River, avevamo citato Yorkville River, sì, ecco, quello è il fronte giovane che ha un senso e che trovo entusiasmante per tante cose. Ho fatto praticamente in ritardo, ho scoperto il grunge, nel senso che io ascoltavo Nick Drake e compagnia bella, soprattutto Crosby, Stills, Nash, devo dire che era proprio il mio non plus ultra, James Taylor, Johnny Mitchell, Tom Waits, prima maniera e ultima, tutto quello che riguarda Bruce Cockburn, tutto quello che riguarda la chitarra acustica e la voce, io non capivo più niente per tutto quello, tendenzialmente poi voci maschili, la voce femminile non trovavo grandi, veramente Johnny Mitchell e Ricky Lee Jones direi, mamma mia, qua siamo proprio brividi da... E condividevo i sogni, nel senso che io veramente sono figlio di due genitori del... che negli anni 70 avevano 19 e 23, mia madre e mio padre, quindi stavano sognando esattamente questo mondo qua. E molto giovani tu. Sì, sì, sì, e mia mamma aveva avuto 19 anni, ah. Era all'università, insomma era una delle prime che sperimentava queste gioie, povera. E quindi io ho abitato quel mondo lì, è stato difficile per me confrontarmi poi con i miei amici che ascoltavano i Duran Duran o gli Spandau Ballet. Io dicevo, ragazzi, ma voi non vi rendete conto di cosa vuol, cioè, di cosa vuol dire? Solo che quando ti confronti con i coetanei è difficile, perché la massa è imponente, sì, e tu sei lì con la chitarrina che provi a dire, ragazzi, c'è Nick Drake, come cazzo fate a pensare che la musica sia questa cosa qui? E lì capisci che è la fine. Capisci che ho avuto anch'io qualche problema del genere, il treno, insomma, è passato, nel senso che lì veramente iniziavo, ho visto, ho toccato con mano quello che poi è oggi la realtà, cioè il fatto che la gente non abbia più idea di cosa sia un disco, di cosa sia ascoltare qualcosa che vada al di là del brano, che abbia idea di mettersi davanti con la poltrona davanti a un impianto e ascoltare quello che esce dall'impianto per più di 5 minuti, e allo stesso tempo nella scrittura cercare delle cose che stiano in piedi sotto un certo profilo e non altri. Mm-hmm. Fra i musicisti, diciamo, più o meno recenti, recentemente, guarda, no, Smog, per esempio, Smog, Bill Callahan è uno di quelli che io considero tra i più alti, Jason Molina, che faceva parte del gruppo, Will Oldham, quelli sono le scoperte post grunge che ho fatto, nel senso che per un po' mi sono un attimino sporcato le mani con Pearl Jam, Nirvana, Alice in Chains soprattutto. Beh, quelli grandissimi. Devo dire che tra questi che ho appena citato, gli Alice in Chains soprattutto vocalmente e emotivamente sono quelli che mi corrispondono di più, nel senso che da una parte è troppa rabbia Nirvana, anche se secondo me lui stava andando verso qualcosa di simile a me concettualmente, nel senso che credo che con l'Unplugged abbia dichiarato qualche cosa che poi non ha potuto inseguire, però credo che la strada fosse quella, nel senso, si era rotto le palle dal mio punto di vista di fare il sedicenne che spacca le cose e stava andando verso qualcosa. Tra l'altro, prima mi è venuto in mente, citando Tim Buckley, stavo iniziando a leggere Gary Lucas, che è il chitarrista di Jeff Buckley, che ha scritto questo testo, questo libro, ho letto la prima pagina e mezzo, nella quale parla del suicidio. E la cosa finalmente che mi fa venire i brividi e mi ha aperto il cuore, perché io sentivo quelle cose lì senza saperle, e questa cosa qua vuol dire che la musica non è un problema di linguaggio, non è un problema di altro, è una questione di sentire, e quando senti, senti. Lui stava veramente vivendo un momento di merda, cioè la major, io non l'avevo capito, perché a noi è stato proposto come qualcosa di indipendente, in realtà la casa discografica sul primo disco aveva spalato una palanca di soldi e il fallimento è stato grosso per lui, e lui ha fatto tutta una serie di anni in crisi, e il disco su cui stava lavorando era completamente depresso, quindi quello che è successo è qualcosa di estremamente lineare rispetto alle cose. Non è che avesse venduto poco Grace, no, però rispetto all'aspettativa, poco rispetto ai parametri, rispetto ai parametri loro era qualche cosa che, vecchia storia, sono di gruppi che hanno venduto 500.000 di copie e non hanno avuto un centesimo, perché il contratto prevedeva, credo che vendite. Poi lì il problema suo sia stato con quello che avevano investito e il relativamente poco che aveva venduto, confermare un secondo disco a quel livello con magari un potenziale investimento simile o poco, probabilmente era stressato non poco. E Gary Lucas dice, l'ultima volta che l'ho visto suonare è salito sul palco e sembrava chiedere aiuto, cioè è salito sul palco, io sono stato male per lui. E io mi ricordo che tutte le volte che ho visto i live di Jeff Buckley, che è una cosa che questa ti sorprende ancora di più di quanto la gente poi veda quello che vuole vedere, no? Io ho sempre avuto la sensazione che lui in realtà bestemmiasse contro le persone, in tantissimi casi. Cioè, in tantissimi momenti lui aveva, per me, tantissima aggressività e tantissimo... perché poi c'aveva probabilmente il vissuto del padre, sentirsi dire, io ero presente nel live a Chicago, c'è qualcuno che gli dice vogliamo sentire Tim Buckley, non te. Cazzo, se poi non gli bestemmi in testa uno che ti dice quelle robe lì, cioè, c'è poco da fare, nel senso, un imbecille. E probabilmente ne ha passate di cotte e di crude. Beh, purtroppo sicuramente era uno fragile. Io l'ho visto dal vivo. Ah, veramente? Sì, gli ho anche stretto la mano. Aveva un'aria di uno abbastanza a disagio in mezzo alle persone, così è venuto a darci gli autografi eccetera, però si vedeva che... a Correggio? Esatto. Si vedeva che era un po' a disagio. Sì, non era sul palco, era una padronanza pazzesca, ma fuori non era facile, un po' come Kurt Cobain. Andiamo citando, escono magicamente. Vabbè, andiamo con un altro brano che poi faremo una piccola sorpresa. Si intitola Sweet Liberty, è sempre dall'album L'ultimo ricatto, di Paolo Saporiti, naturalmente, che è qui con noi. Feels like fire to me on the streets. When it keeps on holding my dreams on its knees. It's running me in time, and your sympathy, burning me in kind, your sweet liberty is carrying. It's running me in time, and your sympathy, burning me in kind, your sweet liberty is carrying me home. Flowers made in a day. Why not sharks like lunch on the rocks on a hill? It's running me in time, and your sympathy, burning me in kind, your sweet liberty is carrying. Running me in time, and your sympathy, burning me in kind, your sweet liberty is carrying me home. When it feels like flowers made in a day. Thank you. And it feels like fire made in the streets. And it keeps on holding my dreams on its knees. It's running meantime, your sympathy is burning mankind, your sweet liberty is carrying me home. It's running meantime, your sympathy is burning mankind, your sweet liberty is carrying me home. And it feels like flowers made in the day. And it shocks like lunch on the rocks from a hill. It's running meantime, your sympathy is burning mankind, your sweet liberty is carrying me home. It's running meantime, your sympathy is burning mankind, your sweet liberty is carrying me home. And it feels like flowers may in the day. Questa era Sweet Liberty, spogliata dall'arrangiamento. Tu dal vivo ti esibisci sempre acustico o a volte fai anche concerti con la band? Allora, quello che sta succedendo adesso è, io ho fatto 2 anni e mezzo a lavorare con Zeno Gabaglio, che è il violoncellista che c'è nel disco, e dal vivo eravamo questo duo con lui col violoncello elettrico, quindi molto versatile, estremamente creativo, e sembrava di essere in tre, nel senso che lui aveva la possibilità veramente di creare suoni costantemente, rinnovando l'ascolto, e in più sovrapporre, nel senso che con i looper e comunque con le macchine riusciva, sì, riusciva a strutturare il lavoro e a creare veramente un effetto orchestrale, diciamo. Purtroppo adesso lui ha deciso di prendere un'altra strada e abbandonarmi a me stesso, quindi io negli ultimi live sto lavorando da solo. Devo dire che il lavoro con lui e il lavoro degli ultimi anni ha dato i suoi frutti. Adesso il mio live da solo sono molto felice, nel senso che riesco a fare una situazione tipo questa, chitarra voce molto semplice, molto dritto, e comunque arrivare a sporcare parecchio il suono, anch'io sovrapporre delle cose, cioè comunque riesco, usi un po' di, sì, un po' di macchina, un po' di effettistica, non tantissima perché voglio comunque che l'aspetto cantautorale rimanga preponderante, non andare troppo verso la sperimentazione da solo. È una strada che percorrerò adesso, nel senso che sto tentando degli innesti per il prossimo futuro. I Donkey Ball erano qualcosa di che andava già verso quello che sto per andare a fare di nuovo. C'era un batterista e un chitarrista elettrico estremamente creativo, estremamente storti, direi. Quello che sto sperimentando adesso è qualcosa di un pelino più storto ancora, che ha a che fare un pochino di più col mondo del noise, quindi andare un po' dietro a quello che è stata la traccia del disco, però trovare una formula che poi porti a un altro lavoro ancora. Quindi io, quello che ti raccontavo prima, cioè a me piace veramente lasciare che le persone poi si vivano completamente il loro spazio all'interno di quello che faccio io, e perché ho scoperto essere la maniera migliore per affezionarsi l'un l'altro. Mi piace tantissimo la conduzione di un Mingus, per dire, nel senso che comunque ero capace, credo, a dirigere quello che aveva sotto gli occhi e essere molto autorevole rispetto alle cose, però da quello che intuisco era uno che comunque lasciava essere le persone, poi magari tirava delle gran legnate, raddrizzava quando c'era il bisogno, però credo che quel tipo di lavoro lì in cui lasciare veramente lo spazio alle persone di inventare loro in ogni momento, in ogni, è la strada migliore. Andiamo con un altro brano dal disco. Questo è il pezzo più lungo dell'album, Sad Love, Bad Love. Bello, mi piace. Beh, l'hai fatto. Vabbè, è il titolo che mi lasciava un po'. Sad Love, Bad Love, amore triste e amore, amore cattivo. È una parafrasi di amore caro, amore bello. Di chi era? Di amore? Baglioni era. Ecco, sì. Potrei svenire qui. Vabbè, allora ci ascoltiamo. Thank you. Rock Wave. Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave Live. In effetti uno dei pezzi più belli del disco, questo Sad Love, Bad Love, che stavo dicendo appunto a Paolo che pare ciò avevo anche azzeccato, mi ricordava un po' le cose di Dave Eugene Edwards, ovvero sia Woven Hand attualmente, precedentemente aveva i 16 horsepower, cioè quel tipo di trasporto quasi sciamanico, soprattutto sul finale. Cioè, con la tensione. A me lui piace moltissimo. Devo dire, negli ultimi dischi è un po' ripetitivo dal mio punto di vista, però ha una voce splendida e veramente ha una tensione interiore che... Un personaggio carismatico come pochi. La volta che l'ho visto suonava con la bandana e veramente parlava con gli spiriti. E gli occhi rovesciati. Fa abbastanza impressione, devo dire, però sì, è una voce... C'era il live dei 16 Horsepower che è uscito recentemente, che è splendido. Sì. E percorre veramente buona parte CD e DVD. Bello. Va bene, abbiamo ancora una ventina di minuti, quindi è tempo per ascoltarci ancora qualcuna delle tue canzoni, visto che siamo qui per questo. Le chiacchiere sì, sono anche piacevoli, ma noi piace sentire la musica. Vuoi dire che devo suonare? Esatto. Questa è Toys, è un po' emblematica rispetto al discorso che facevo prima. Questa è proprio una canzone che nasce da quel bambino in quella stanza e che gioca con i suoi fantasmi e che nelle mie richieste al mondo prevedeva il fatto che i genitori trovassero in se stessi la forza per lasciar giocare i bambini con le loro paure, le loro cose. E questo era un po' un invito, la canzone parla di questo. Ok, allora questa è Toys da Paolo Saporiti, buon ascolto. Toys, appunto i giocattoli. abbiamo citato i nomi tutelari, diciamo, del lato cantautorale della tua musica. Per quanto riguarda invece il caos più o meno organizzato, qualche riferimento, o è stato, hai detto, hai messo tutto nelle mani di Xavier? Aspetta, cioè, tu ascolti musica rumorista o proprio come ascolti miei? In realtà relativamente, nel senso che, per esempio, un disco del quale abbiamo parlato proprio l'altro giorno con Xavier, l'ultimo di Scott Walker, che è strepitoso, è veramente strepitoso. Tra l'altro avevo sottovalutato, avevo un po' preso male le punti di vista dei giornalisti, nel senso che l'avevo sentito osannare, ho detto vabbè, solita roba, solito disco difficile, impossibile. Invece è veramente un disco splendido, e che apre buona sapere, tra l'altro, sì, apre l'accesso a tutto quello che ha fatto prima, a Tilt e a quello antecedente che adesso mi sfugge. Mi stanno piacendo moltissimo gli Swans. Il disco degli Swans, secondo me, quest'anno è uno dei dischi più belli che siano usciti. E lì c'è un noising che però non è il vero noise soltanto rumoristico, è proprio un approccio devastante, e, non so, demoniaco, non so come definirlo. È un qualche cosa che secondo me tira veramente sulla terra dal terreno. Una cosa per me, Michael Gira o Gira, o come si pronuncia, penso Gira, so, ma non, Michael, non mettere la mano sul fuoco. Credo che in questo momento vocalmente e come tipo di intenzione sulla musica è quello che in questo momento sta facendo le cose più belle per me, e devo dire anche Scott Walker in questo momento non lo terrei tanto lontano da quello, nel senso che fa delle cose di quel tipo lì, due note fisse e segue quel percorso. Poi vocalmente Walker fa un altro tipo di lavoro, però non so perché c'è qualcosa che me li chiama. A me era piaciuto molto i lavori di Fennez, Alvanoto, in alcune cose quando vanno verso anche il noise, che l'elettronica non rimane soltanto qualcosa di etereo e fermo là. C'era qualcosa, adesso mi sfugge il nome, c'è un tale che ho ascoltato ultimamente che, rispetto ai discorsi che facevamo fuori onda, tacciati di essere musica di destra, non so se è NON, è un tale che fa un noise veramente cattivo, veramente quello è veramente brutale, perché lo fai, sì, è veramente cattivo, proprio una cosa fin troppo. Allora, abbiamo ancora un paio di canzoni e poi chiuderai con un altro brano, sì, dal vivo, come nostra abitudine. Allora, andiamo subito con la prima, che è quella che chiude il disco, e si intitola, è un acronimo, FRIPP, ovvero sia FRIP, è riferito a Robert Fripp. In parte, in realtà, c'è dentro RIP. Ah. Ok, allora ci ascoltiamo questa FRIP, o FRIPP, o FR, non lo dico neanche in inglese, ascoltiamo e basta. Stay that I belong to. the thrill. But the thrills that I've been hearing late tonight, the words that I recall, old horizon, a cold wind rising, and there's a cold horizon, a cold wind rising that brings me warmth. Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave Live. Bene, questo era il brano che chiudeva il disco, ma poi abbiamo un altro brano da ascoltare dall'album prima della chiusura di trasmissione, che è un brano che dicevi, insomma, questo War. Sì, è il pezzo più aperto, che arriva forse di più del disco. Una volta sarebbe stato un singolo, diciamo, perché ormai sono cose che non hanno molto senso, visto che Bowie è tornato sulle scene dopo 10 anni, con grande gioia dei suoi fan come sottoscritto, anche perché è stato molto male, insomma, si erano un po' preoccupati, e semplicemente ha messo il brano su YouTube. A un certo punto ha detto: neanche inutile cercare di fare. Ah, veramente? Sì, sì, il brano si trova su internet, la gente se lo ascolta e fine. Ah, è finita lì? Sì, sì, e il disco uscirà fra un mesetto, mi pare. 15 marzo, mi dice Maurizio. Ah. Quindi ben più di un mese. E chiaramente, se sei David Bowie, puoi farlo, perché sai già che la gente ascolta. La gente ascolta. È un sistema di promozione molto efficace, perché alla fine. Anche quando i dischi venivano dati alle radio perché li trasmettessero, la gente li ascoltava gratis, cioè non è che concettualmente sia cambiato molto. Però appunto, per un musicista che ha bisogno magari di farsi conoscere un po' più di David Bowie, il concetto del singolo adesso ha un po' perso. Sì, non ha particolarmente senso. Cioè, noi arriviamo... ma come il video stesso. Il video ormai non riguarda più nessuno. Abbiamo fatto un momento che si investiva anche tanti soldi. Quei pochi soldi che avevamo erano buttati nel video. In realtà adesso siamo tutti lì a dire per cosa. Nel senso che tanto non hai... Poi i canali, alla fine dei conti, per esempio MTV, che era quello che è l'unico che funzionava e faceva vedere le robe, alla fine i video di un certo tipo li mandava alle 3 di notte. Non aveva senso, cioè negli ultimi anni non ha avuto senso nulla di questo tipo, perché con qualsiasi investimento facessi, alla fine dei conti, se non avevi già il risultato in mano, non andava da nessuna parte. Chiaro. Io devo dire, ho fatto un bel video, sono contento. Anche questo, per Sweet Liberty abbiamo fatto un video, l'ha fatto un amico, c'è un'intuizione che mi piace, la modalità in cui è realizzato mi piace tantissimo. Ed è su YouTube? Sì, è su YouTube. Solo che sai, va il discorso che stai facendo, le visualizzazioni sono quello che sono, o ti attacchi, non so, a qualche treno che funziona già e tiri le visualizzazioni per quello, se no da sconosciuto è veramente... Cioè, chiaro, è un miliardo. Anche Facebook, che comunque è uno strumento che, per dire, per trovare le date è utilissimo, a livello di contatti è fondamentale, perché oramai io mi muovo tantissimo grazie a quello. Non avevi le mail, non avevi contatti le persone, con Facebook li trovi, ha cancellato un po' di barriere. È altrettanto vero che però, avendo cancellato le barriere, poi c'è un marasma totale. Chiaro. Allora, ci ascoltiamo War e poi ci risentiamo per i saluti e per la chiusura dal vivo. Down to be be me, we stare at each other. I'm killing the sound, the sound of beer. Oh. Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave Live. Allora, questa era War di Paolo Saporiti, che è stato, che è tuttora il nostro ospite, ma ancora per poco. E, visto che hai citato Facebook, allora Paolo si può trovare, si può contattare su Facebook, poi c'è un sito naturalmente. Un sito, sì, che andrà aggiornato a breve. Per ora c'è la pagina, però esiste, si accede a quello vecchio, paolosaporiti.com. Ok. Poi c'è i soliti MySpace, Bandcamp, però in realtà, sì, in realtà quello che direi funziona, che quello che funziona è Facebook. E, il CD è distribuito nei, nei negozi? Non è distribuito, bisogna o contattare me o la casa discografica. Ok, la casa discografica, che vi ricordo, è la Orange Home Records, esatto. Orange Home Records. Comunque io consiglio sempre di contattare direttamente il musicista. Poi in realtà volgari, cioè, ragioni economiche. Ce l'hanno un po' di negozianti tipo a Milano, a Torino, alcune figure che negli anni comunque ultimamente mi hanno supportato, tipo Carua anche a Gallarate, Buscadero, persone con le quali si è creato del rapporto e spero del reciproco rispetto. Ok, possibilità di vederti dal vivo prossimamente da queste parti? Hai da queste qualcosa? Parti relativamente, nel senso che adesso ho una serie di date a Milano delle quali sono molto contento, perché per esempio il 18, questa settimana, ho degli amici che aprono e fanno una presentazione di testi della Beat Generation accompagnati da un sassofonista che lavora con Falzone e un chitarrista che è il produttore, credo, del progetto, e fanno un lavoro splendido. Gli amici miei leggono le poesie, è veramente un lavoro delicatissimo e bellissimo. E in apertura ci sarà anche Adelio Rossi Alessandro, che è il chitarrista col quale sto iniziando a collaborare, ex membro dei Bancale, che era un gruppo che secondo me in Italia avrebbe fatto delle gran belle cose, purtroppo si sono sciolti, ma credo che a livello di massimo volume, Bachi da Pietra, quel tipo di suono lì, stavano lavorando in un modo che secondo me era strepitoso. Il live era veramente meraviglioso e spero di riuscire. L'innesto che sto cercando è quel tipo di cosa su quello che faccio io. È azzardato, ma come ha funzionato Xavier, credo che potremmo trovare, se troviamo la misura, potrebbe uscire qualcosa di bello veramente. Va bene, comunque per tenervi aggiornati sulle date, eventualmente, sì, appunto, c'è date, Facebook. Poi farò una bella cosa in una rassegna di poesia e cantautorato da una poetessa che è una mia amica, in una situazione da 15-20 persone. Sono sempre di più per queste cose, nel senso che credo che per come stanno andando le cose in Italia, l'unica strada è quella. Nel senso, creare sempre di più una rete di persone che si stimano innanzitutto e creano un pubblico educato, cioè quello di cui parlavamo prima, della Germania. In Italia non esiste, eravamo fuori onda, ma insomma bisogna iniziare a far sì che le persone si avvicinino e dare sempre di più questo tipo di Ok, prima di chiudere l'appuntamento, volevo annunciare fra due settimane, fra due lunedì, avremo un'altra grande serata live con Caroline Mas, una cantautrice americana che fece un disco d'esordio fulminante nel 79, sembrava dovesse diventare grandissima, poi appunto finì nei guai per via della Mercury, come dicevamo prima, e poi ha avuto tante altre vicissitudini, però è ancora alive and kicking e viene in Italia per un tour, suonerà anche a Vicenza fra l'altro il 25, e appunto il lunedì 28 sarà mia ospite. Per me è un'emozione straordinaria, dopo tanti anni, avere questa persona qui da noi. E comunque intanto ringraziamo Paolo per essere venuto qua, è stato veramente un piacere, complimenti per il disco, molto molto interessante, molto bello, vi ricordo che si intitola L'ultimo ricatto, e vabbè, speriamo di ritrovarti qua per un nuovo disco in futuro, avanti così, dai. Sì, visto che hai intenzione di farne molti altri, non ci saranno occasioni, per augurarci la buonanotte hai scelto In the Mud. Bene, allora Paolo Saporiti dal vivo qua su Blu Radio Veneto, e ricordo a tutti anche che la trasmissione fra pochi giorni sarà disponibile in podcast tramite il nostro sito, se volete riascoltarlo se avete perso la parte iniziale. Da Stefano Dainese, grazie ad Agostino naturalmente per la solita perfetta regia e suoni, e vi auguro la buonanotte, vi ringrazio per l'ascolto e ringrazio ancora Paolo per essere stato con noi. Grazie a voi. We've been losing away, watching stars on above. We've been losing a faith, feeling so proud of the wrong. In the mud, we're all losers in the mud. In the mud, in the mud, we've been carrying the weight of the world. Living us hard on our own, when everything seems to be down. And following the word and stone, there's not a good chance to be thrown. In the mud, in the mud, we're all losers in the mud. In the mud, in the mud, we've been carrying the weight of the world. So sleep, baby, sleep, and hold on to dreams. So sleep, baby, sleep, baby, sleep. In the mud, in the mud, we're all losers in the mud. In the mud, in the mud, we've been carrying the weight on the world. So sleep, baby, sleep, and hold on to dreams. So sleep, baby, sleep, baby.